Ecco un problema per Suchong. Le piccole provano repulsione per l'aspetto e il puzzo dei cadaveri. Devo trovare il modo di rendere il compito della raccolta più gradevole. Forse potremmo programmarle in modo che vedano i corpi come qualcosa di più attraente. Gattini, tavolette di cioccolato, qualunque altra stupidaggine attragga i bambini. Stanno morendo tutte. Per mesi sono state in buona salute e poi, improvvisamente, puff! E morire di cosa, poi? Influenza. Una dannata influenza. Quelle piccolette sono virtualmente indistruttibili. Un proiettile? Si curano. Il fuoco? Si curano. Ma con un virus? Puff! Muoiono in pochi giorni. Deve esserci qualcosa nel processo di instillazione. Ne rimane solamente una. Deve essere resistente a questo tipo particolare di sollecitazione. Quest'unica ragazzina. Anche se tutti gli altri moriranno, sarà abbastanza per salvare il programma dall'estinzione. Torna in forma con un click. Prova Plasmi Quick. Plasmi Quick, il tuo corpo come lo vuoi tu. Il parassita odia tre cose: i liberi mercati, la libera volontà e i liberi intelletti. Il parassita tiene d'occhio Rapture. Tenete d'occhio il parassita. Atlas è amico del parassita. Non siate amici di Atlas. La maldicenza è lo strumento del parassita. Fontaine è morto. Rapture vive. Avvicinarsi alle sorelline è un crimine. Non avvicinarsi alle sorelline. Il contrabbandiere è amico del parassita. È un dovere denunciare il contrabbandiere. Ignorate le menzogne di Atlas e dei suoi parassiti. Rapture è in ascesa. Andrew Ryan ci ricorda: tutti facciamo delle scelte, ma in fondo sono le nostre scelte a fare noi. Andrew Ryan ti fa una semplice domanda: sei un uomo o uno schiavo? Ci muoviamo tutti nella grande catena e la grande catena muove tutti noi. Che succede, Mary? Hai l'aria di aver appena ricevuto una notizia terribile. La pena capitale! Rapture? Non è per questo che ho firmato. Rifletti un attimo, mia cara. Gli unici a Rapture che rischiano la pena capitale sono i contrabbandieri, e questo perché mettono a rischio tutto ciò per cui lavoriamo. Immagina se i sovietici scoprissero l'esistenza della nostra meravigliosa città, o persino il governo americano. La nostra segretezza è il nostro scudo. Mi sa che hai ragione, Jim. La pena capitale è un piccolo prezzo da pagare per proteggere la nostra libertà. Ben detto, Mary. Ehi, Mary, tutto ok? Hai saputo che Andrew Ryan ha preso il comando delle Fontaine Futuristics? È pazzesco! Ehi, calmati, signorina! Scusa, Jim, ma sono davvero sconvolta! Siamo venuti qui a Rapture per evitare interferenze politiche nell'iniziativa privata. Sicuro, Mary, ma Andrew Ryan non ha il controllo di tutto. Il Consiglio di Governo ha assunto la direzione della Fontaine Futuristics finché tutti i reati e le menzogne di Frank Fontaine contro l'agente di Rapture non verranno alla luce. Molto presto tutto tornerà alla normalità. Davvero? Beh, mi sono tolta un bel peso. Ricorda, Mary, dubitare del Consiglio serve solo a incoraggiare i banditi. Ciao, Mary. Vai alla partita stasera? Ho sentito che giocano i Ryan's Raiders. No, Jim. Non è sicuro. Non hai sentito? I banditi di Atlas sono dappertutto. Ehi, ricorda cosa ha detto Andrew Ryan. Se lo fai, vincono i banditi. Porta la tua famiglia a Fort Frolic e all'Arcadia. Esci a fare shopping. È questo lo stile di vita a Rapture. Ehi, Mary, perché quella faccia? Non so, Jim. Non so bene cosa pensare di quelle sorelline. Le sorelline? Ehi, non hai capito che sono il collante che tiene insieme Rapture? Davvero? Ma certo, la Ryan Industries ha provveduto a renderle felici mentre svolgono il lavoro che ci protegge da banditi e terroristi. Abbiamo tutti bisogno di Adam e abbiamo tutti bisogno delle sorelline. Che succede, Mary? Ti vedo un po' giù di corda. Non mi sento granché bene. Ho i brividi, la nausea e a volte ho persino delle allucinazioni. È solo una piccola depressione da plasmidi, Mary. Basta rallentare un po' con le ricombinazioni. In men che non si dica, tornerai un gioiellino. Ricorda, ricombinati con cautela e sarai felice. Ehi, Mary, che cos'è quel muso lungo? Hai sentito cosa succede giù ad Apollo Square? Ho saputo che chiudono la gente nelle gabbie. Oh, Mary, ancora dar retta alle chiacchiere. La sicurezza di Rapture sta solo radunando i tipi più pericolosi finché il Consiglio non potrà giudicarli in un regolare processo. Dicono che ci siano state delle esecuzioni. Girano un sacco di voci irresponsabili. Questo non significa che si debbano incoraggiare Atlas e i suoi banditi facendo loro da cassa di risonanza. Ricorda, Mary, la sicurezza di Rapture è la nostra sicurezza. Va tutto bene? Sembra che il mondo intero stia crollando. Sembravano guai. Tutto a posto, ragazzo? Che brutto rumore. È tutto a posto laggiù? Quella cosa ha vissuto giorni migliori. Ti ho spedito un pacchetto con dei rifornimenti. Puoi recuperarlo al più vicino tubo pneumatico. Ora devi tenere gli occhi spalancati. Quella porta ha bisogno solo di una piccola scossa per aprirsi. Colpiscila con elettroscarica. Avanti, ragazzo, colpisci la porta con elettroscarica. Puoi restare qua giù. Pare che queste creaturine si stiano eccitando. Ma attenzione! Assolutamente no! Lo proibisco! I corpi sono belli, anche nella morte. Sei stato gentile con le mie bimbe. Ma sei davvero nostro amico? Comunque, una bimba ti offre un regalo in segno della nostra stima. Anche nel buio che si addensa, tu accendi una candela. Tu hai salvato le piccole quando avresti potuto mostrare la tua crudeltà. Ti sto inviando qualcosa per dimostrarti la nostra gratitudine. Le bimbe non hanno mai avuto un esempio, a parte me, e non è il caso di parlarne. Tu dai loro speranza, e per questo ti sono grata. Ti manderò qualcosa per dartene un segno tangibile. Ho visto cose terribili, e ne ho fatte di peggiori. Grazie per avermi ricordato che la luce del mondo non è ancora stata estinta. Ti mando una bimba ad aiutarti a procedere. L'Adam migliora ogni aspetto di un uomo, tranne il carattere. Forse esiste un plasmide capace di potenziare lo spirito. Forse nel tuo DNA risiede questo segreto. Ho mandato una bimba con dei doni per alleviare il tuo fardello. Che cosa posso fare davvero per queste bimbe? Sono una lurida peccatrice, ma tu, forse tu, apri loro un futuro che io non so nemmeno immaginare. Una bimba ti sta raggiungendo con un regalo. Fai attenzione. È un mondo malato, vero? Come posso ringraziarti per questa gentilezza? Mando un'altra bimba con un segno della nostra riconoscenza. Promemoria di Rapture. Tutti dobbiamo pagare le bollette e la tentazione di infrangere il coprifuoco per recuperare un po' di Adam extra è perdonabile. Infrangere il coprifuoco non lo è. Comportatevi bene e state lontani dai guai. Che succede, Frank? Colpa di questi dannati capelli, Jim. Ogni giorno sono sempre meno. Sai che il problema non sono i tuoi capelli, ma i tuoi geni. Ehi, non iniziare con questa storia delle ricombinazioni. Ho sentito dire da un amico che non sono sicure. E il tuo amico dimostra di non saperne affatto. Vieni a Genetic Horizons a provare ricrescita. Garantisce il rinfoltimento della chioma ed è sicuro al 100%. Una testa piena di capelli? E sicuro al 100%? Forse è giunto il momento di provare ricrescita! Promemoria di Rapture. Il fondale degli oceani è la nostra casa, ma può anche essere un posto pericoloso. Ogni falla può essere pericolosa. Se vedete dell'acqua, comunicatelo subito al Consiglio Centrale. Promemoria di Rapture. Desiderare qualcosa dalla superficie non è reato. Comprarlo o contrabbandarlo a Rapture lo è. Restate al vostro livello e fuori dai guai. Salve amici! Sapevate che 9 donne su 10 preferiscono gli uomini atletici? Perché rimanere emarginati? Con la nuova linea di plasmidi Sport Boost potrete finalmente diventare quei veri maschi muscolosi che avete sempre desiderato essere. Venite a trovarci al padiglione medico per una prova gratuita di 2 ore. Apprezzerete i risultati e anche la vostra lei. Sei al verde? Noi di Surgical Savings saremo felici di rateizzare qualsiasi tipo di pagamento per qualsiasi procedura. Le malattie terminali non aspettano il giorno di paga. E tu? C'è qualcuno che può farti sentire meglio di Sander Cohen? Il più amato artista musicale di Rapture torna con il suo più grande album di sempre, Perché me lo chiedi? Canzoni di gioia, d'amore e di passione. Compra oggi Perché me lo chiedi e invita Sander Cohen a casa tua. Balla con me! Ladro! Uccidiamolo! Sporco ladruncolo! Allarme in corso, sigilli della paratia inattivi. Non scommetterei su di te. Avrai più fortuna la prossima volta. Devi aver fatto qualcosa di brutto a qualcuno in una vita precedente. Beh, spero che ci sia qualcuno che porti avanti il tuo cognome. Speri di potertene andare da qui? Non andrà bene. Non andrà affatto bene. Non credo proprio. Credimi, non vorrei essere nei tuoi panni. Chiudi gli occhi, tesoro, e spera che finisca in fretta. Beh, magari sarà rapido e indolore. Allora, hai già scelto dove essere sepolto? Forse dovresti chiedere a qualcun altro. Lui è quello che ci ha salvato! È proprio lui! Quello che ci ha salvato! È lui! È quello che ci ha aiutato! Grazie, signore! Grazie di averci salvato. Grazie, grazie mille. Did you bring me a flower? Did you bring me a song? Ladro, uccidetelo! Sporco ladruncolo! Il mio papà è più intelligente di Einstein, più forte di Ercole e accende il fuoco schioccando le dita. Sei in gamba come il mio papà, signore? Se non visiti il Gatherer's Garden, no di certo! I papà furbi si ricombinano al Garden! Oh, Nel giardino che curiamo ci sono tanti cambiamenti. Guarda i fiori che cresciamo, sono davvero sorprendenti. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Oh, precious did that grace appear the hour I first believed. Yes, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. The Lord has promised good to me. His words my hope secures. His will my shield and portion be. As long as life endures. Qual è la più grande menzogna mai inventata? Qual è la più grande punizione inflitta al genere umano? La schiavitù? L'olocausto? La dittatura? No, è lo strumento attorno al quale sorge tutta questa malvagità, l'altruismo. Quando qualcuno vuol far fare agli altri il proprio lavoro, si tira in ballo l'altruismo. Non pensare solo agli affari tuoi. Pensa anche a quelli degli altri. Ti dicono, allo Stato, ai poveri, all'esercito, al re, a Dio. Quante catastrofi sono iniziate con le parole «pensa per te stesso». Il re e il suo popolo accendono la miccia della distruzione. È questo grande capovolgimento, l'antica menzogna, che ha incatenato l'umanità in un ciclo infinito di colpa e fallimento. Il mio viaggio a Rapture è stato il mio secondo esodo. Nel 1919 sono fuggito da una nazione che ha cambiato la tirannia con la follia. La rivoluzione marxista ha semplicemente scambiato una bugia con un'altra. Invece di un solo uomo, lo zar, con in mano il frutto del lavoro della gente, la collettività è diventata proprietaria del lavoro di tutte le persone. Per questo motivo sono venuto in America, dove un uomo è responsabile del proprio lavoro, dove un uomo può sfruttare la brillantezza della propria intelligenza e la forza dei propri muscoli, dove un uomo ha la libertà di agire come vuole. Pensavo di essermi lasciato i parassiti moscoviti alle spalle. Pensavo di aver abbandonato l'ideale di altruismo marxista. Ma quei pazzi dei tedeschi si sono immolati sulla spada di Hitler per il bene del Reich, mentre gli americani si avvelenavano con il veleno bolscevico instillato in loro da Roosevelt e i seguaci del suo New Deal. Perciò mi sono chiesto, quale nazione poteva ospitare persone come me? Persone che si rifiutavano di ubbidire a parassiti e scettici. Uomini che credevano nella sacralità del lavoro e nell'inviolabilità della proprietà privata. Poi, un giorno, la lieta notizia. Non esisteva un posto per gente come me. E da qui la decisione di realizzarne uno. Sei diventato un po' avido! Ancora! Ne vuoi ancora, porcellino avido? Ladro! Uccidiamolo! Sporco ladruncolo!